il pudore e l'effondersi. Il pudore e l'effondersi. Le forze che contrastano in me. Il segreto spalancarsi dell'anima. Il non sempre compreso farne parte con gli altri. Tutto questo, mio Dio. Quante emozioni provochi tu, sai. Quanti affanni di vero. Quali forti domande per giungere al proposito del sì. Alla serena sicurezza di avere posto a frutto quanto avevo, di poter mantenere le promesse che in silenzio mi facevo nel cuore. Anche se quanti non le udirono, ora un poco mi fanno resistenza. E diverse mi credono e restano confusi nell'inganno. Gennaio 1964. Ciao Mariella, sono nata io quel mese, il 12 gennaio del 64. Sono nata con il pudore e l'effondersi.